Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, nei giorni scorsi ho appreso una notizia che a mio giudizio sarebbe da riportare a caratteri cubitali su tutti i mezzi di informazione. Si stanno sbandierando i vari provvedimenti per ridurre i costi dello Stato, come se questi fossero sacrifici personali dei nostri politici. La notizia sconvolgente è che gli ex parlamentari hanno, per ben 10 anni dopo la fine del loro mandato, una sorta di benefit di 2.200 euro annui da spendere per viaggi aerei o ferroviari. Solo al Senato sono 250 coloro che godono di questo immeritato e ingiusto privilegio. Pensate che fino a pochi anni fa questo privilegio era valido per tutta la vita degli ex parlamentari. C'è un individuo qualsiasi che può riferire alla popolazione per quale motivo la comunità debba pagare i viaggi di piacere per 10 anni a tutti gli ex onorevoli? Possibile che nessun partito sia in grado di eliminare simili vergogne? In questi momenti comprendo le ragioni di chi si astiene dal voto. È per un senso di schifo che milioni di persone non si recano alle urne. Marco. Caro Marco, ho avuto più volte occasione di dire che uno dei problemi maggiori che la politica si trova ad affrontare è l'esigenza, ma insieme l'incapacità e la mancanza di volontà nel riformare se stessa. Lo dimostra l'ultima manovra finanziaria, dove era stato annunciato un taglio del 50% ai rimborsi elettorali per i partiti, un taglio che poi si è progressivamente ridotto fino al 10% e che poi scatterà dopo il prossimo rinnovo del Parlamento e quindi, probabilmente, solo nel 2013. Allo stesso modo, non si vede traccia per ora dei tagli agli stipendi e all'indennità dei parlamentari. Eppure, proprio in tempi come quello attuale, la politica dovrebbe dare quello che si chiama semplicemente il buon esempio. Perché, come lei giustamente nota, non è tanto la destra o la sinistra, la maggioranza o l'opposizione che sono in gioco. È tutta la politica che rischia di perdere ancora di più credibilità. E questo è un problema per l'intera democrazia. Gentile redazione, volevo sottoporvi il mio caso che dimostra come non sia vero che la finanziaria in fase di approvazione non mette le mani nelle tasche degli italiani. Sono un ex dirigente industriale e a febbraio ho raggiunto un accordo consensuale con la mia azienda in base al quale potevo fruire di una cifra che mi consentiva, tramite contribuzione volontaria, di coprire le mie esigenze fino al maturare della pensione di anzianità per 40 anni di contribuzione, novembre 2011. Che sarebbe stata erogata nella finestra di aprile 2012. In tal senso ho attivato la pratica presso l'INPS. Ora, con lo slittamento dell'erogazione della pensione a 12 mesi dalla data di maturazione, io potrò fruirne soltanto a dicembre 2012, ben 8 mesi dopo e con una perdita netta valutabile nell'ordine di 40.000 euro. Nel mio caso non mi sembra sia vera la frase «non si mettono le mani nelle tasche degli italiani», ma bensì che si mettono le mani nei conti correnti degli italiani. Quello che come cittadino mi amareggia, facendomi perdere fiducia nelle istituzioni, è che non si possono cambiare le regole dopo che si sono prese decisioni vitali sul futuro economico di una famiglia. Se io l'avessi saputo, non l'avrei sicuramente fatto e sarei andato avanti tranquillamente a lavorare. Inoltre sono ulteriormente penalizzato, perché non posso fare attività lavorative in quanto mi procrastinerebbero ulteriormente la maturazione dei requisiti. Come cittadino avrei pagato volentieri una tassa speciale a fronte della situazione economica, ma non una tassa che equivale al 75% del mio stipendio annuo. A meno che questo fosse chiesto democraticamente a tutti, nessuno escluso. Lorenzo, Milano. Sono convinto che in questo paese il problema più grande sia la continua, perenne mancanza di opposizione, cioè la vera opposizione. Che a mio avviso è quella che quando fa una protesta la fa su qualcosa di concreto e non demagogico e soprattutto la porta a termine, non la fa durare un giorno. L'opposizione inoltre dovrebbe incalzare il governo ad applicare il programma, invece da noi ci si accontenta di partecipare a qualche distribuzione degli spiccioli. In pratica si fa finta di protestare, ma solo fino a quando non si ottiene qualcosa per sé. Poi il titolo della protesta serve solo per quello. Esempio. Magari si protesta per non far passare una strada o una ferrovia, ma è solo per alzare il prezzo. Quando poi lo Stato paga i terreni qualche soldo in più, allora là dove doveva passare un solo binario ne possono passare anche 5. Metodo sindacato, insomma. Ippolito. Certamente l'abolizione delle province è un messaggio con qualche effetto pratico. Le province sono enti lontani dai cittadini, sono lontane quindi dal loro controllo, ma vicine a chi voglia fare affari con loro e a chi cerchi un posto, da consigliere in qualche azienda di responsabilità della provincia o come dipendente della stessa. Detto questo, mi sembra che il grosso costo siano le aziende ex municipali, sia per gli organi dirigenti, che sono nominati politicamente, sia per i dipendenti, che spesso ottengono il posto per clientelismo. Il problema è che noi italiani siamo abituati a convivere con il clientelismo. Abbiamo paura della concorrenza tra noi e quindi accettiamo che qualcuno ci aiuti, ben sapendo che questo ci costerà molto, sia in termini economici, sia politici. Simone. Una rapida risposta a chi prova da tempo a infierire sul principio della legalità, sulla sicurezza dei cittadini e sul principio della certezza del diritto e della pena, attraverso le continue e subdole proposte di indulti o le indecenti proposte di depenalizzazione, al fine sbagliato e con il mezzo sbagliato di ridurre il numero dei carcerati che in Italia eccede il numero dei posti letto nelle carceri. Innanzitutto, se le carceri continuano a riempirsi, vi sarà pure un motivo. Se corruzione, illegalità diffuse e mafie uccidono questo paese, vi sarà pure un motivo per il quale si consente a queste minacce allo Stato e al popolo, alle famiglie e alle imprese, di restare per lo più impunite o impunibili. Le carceri sono piene? Invece di pensare a come svuotarle per riempire di nuovo le strade e le piazze italiane di soggetti che potrebbero così reiterare liberamente i reati per i quali sono stati accusati, giudicati e puniti, si pensi a come costruire un numero di carceri sufficiente a tenere dentro quattro mura carcerarie tutto il marcio che c'è in questo paese. L'esempio francese è lampante. Carceri costruite da privati e convenzionate con lo Stato. Ecco la soluzione. Rapida, efficace, economica, risolutiva. Se si seguisse questa strada, nel giro di 3 anni al massimo avremmo probabilmente raddoppiato o triplicato i posti letto nelle carceri italiane. Ma mi domando, è questo l'interesse che stanno perseguendo i politici che vogliono indulti e depenalizzazioni? Ovvero, attraverso questo problema, se ne vuole risolvere un altro? E se sì, quale? Siate seri e pensate ad amministrare la cosa pubblica in favore delle famiglie e delle imprese italiane. Siate seri e copiate dalla Francia. Gustavo. Per contrastare i danni causati da guida scorretta o pericolosa di veicoli a motore, vorrei che ci fosse la possibilità di tenere in considerazione le segnalazioni fatte dai cittadini. Per ragioni di prevenzione, ma anche di giustizia, a mio avviso sarebbe opportuna l'istituzione di un numero nazionale dedicato, dove il cittadino che assiste a un episodio di guida pericolosa potesse fornire generalità e numero di targa del mezzo pericoloso, tipo di infrazione e luogo dell'infrazione. Si potrebbe così stilare una lista di sospetti che dovrebbero essere guardati con attenzione da parte delle forze di vigilanza sulle strade. Se poi le segnalazioni per lo stesso mezzo dovessero essere multiple, ovvero fatte da soggetti diversi, ecco che il veicolo in questione potrebbe entrare a far parte di una lista nera. Credo che in questo modo furbi, ubriachi, patiti di Formula 1 e in generale i potenziali omicidi potrebbero essere ostacolati efficacemente. In ogni caso, si creerebbe un percorso virtuoso di prevenzione, nella consapevolezza che nessuno può permettersi distrazioni sulla strada. Pasquale, provincia di Bergamo. Caro direttore, è sfuggito in questi giorni un curioso primato. Siamo il primo paese al mondo, nel corso della crisi attuale, che taglia la cultura per combattere la crisi. In Grecia o in Francia, persino in Gran Bretagna, i tagli per questo settore della società e dell'economia sono pari a zero. Da noi erano già sotto la media quanto a finanziamenti pubblici in rapporto al PIL. E le due briciole sinora a disposizione vengono ora azzerate, dimezzate e spolpate. E dei disoccupati chi se ne frega? D'altronde, va detto, a Roma nessuno versa lacrime sui disoccupati operai del nord-est, eccetera. Possibile che, da paese meta di abbondante turismo d'élite, pensiamo di poter fare a meno proprio di spettacolo, cultura e media? Ma i ministri lo sanno che se le case al Colosseo valgono fortune e costano il quadruplo rispetto a 10 anni fa, la differenza l'hanno fatta proprio gli stranieri ricchi. E non hanno capito che senza i due mondi di Spoleto o la Kidman in giro, gli si svaluta l'immobile? Giovanni. Questa era arrivano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.